strade tra la gente, ho visto spesso che si va per una meta poi non giusta. I giorni passano in fretta e furia e non verranno mai a ricordarci quello che noi siamo stati. Il vento sfiora i miei ricordi che rivivono, è il mio domani impaziente di arrivare, pronto a riempire i miei vuoti, sempre più vuoti, di una vita che va su e giù come un ascensore. Avrei voluto essere come un gabbiano per volare sopra i mari, assaporare nuova libertà, quella libertà sperata e sognata non avuta mai, perché il timore di cadere è stato tanto, quel coraggio che non mi è mai stato amico e che non mi ha mai teso le sue grandi braccia. Per niente avrei voluto calpestare quei verdi prati per poi ricominciare a sentirmi vivo. Così, così questa vita è così, solo ora so di essere così stupido, perché così, perché così che ho messo un freno scioccamente. Però non lo cambierò mai, son convinto che la strada finisce qui, solo qui.